vivere le sensazioni. Sincere va, pagate col prezzo del dolore. Quello che ci rimane è la tristezza del tramonto serena. Tristezza di giorni di sogni sofferti nel limbo delle emozioni più forti. L'unica nostra forza è la sincerità, il nostro giorno del sole, nella energia fino all'alba, e per non vibrare i nostri sorrisi sui volti scavati dal pianto. Sincerità è il nostro giorno del sole, splendere l'energia fin dall'alba, e il tramonto di fare i nostri sorrisi sui volti scalati dal piede.